passo il mio tempo a rimuginare su tutto, viviseziono gli argomenti, cerco sempre nuove verità, vivo nel tormento fra congetture e certezze. Un filosofo disse: io non so niente, ma è solo una banalità. Sono un pensatore, passo i miei giorni a meditare. Corre l'esistenza, ma io resto sempre qui. Sono architetto dei pensieri, sono la cura per i tempi duri. Il tutto cambia, ma io resto sempre così. Sedete intorno a me, ci aspetta un mare di concetti. Avrete le risposte, o almeno qualcosa che vi piacerà. Mi occuperò dei vostri dubbi, voi che fantasticate di giorni migliori. Saremo insieme nella tempesta, e la tempesta non conosce la pietà. Sono un pensatore, passo i miei giorni a meditare. Corre l'esistenza, ma io resto sempre qui. Sono architetto dei pensieri, sono la cura per i tempi duri. Il tutto cambia, ma io resto sempre così. Pensatore, passo i miei giorni a meditare. Corre l'esistenza, ma io resto sempre qui. Sono architetto dei pensieri, sono la cura per i tempi duri. Il tutto cambia, ma io resto sempre così. Sono un pensatore, passo i miei giorni a meditare. Corre l'esistenza, ma io resto sempre qui. Sono architetto dei pensieri, sono la cura per i tempi duri. Il tutto cambia, ma io resto sempre così.